Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Il cortile del Museo del Bardo, una fuga disperata, scappano a decine. È l'immagine di una giornata di terrore nel cuore di Tunisi. Il poliziotto cerca di fare scudo a questa famiglia. Sanno di essere esposti al tiro del comando armato che si è barricato dentro. Il museo è affollato di turisti. Ci sono anche molti italiani e sono ostaggio di 3 terroristi armati di Kalashnikov. Scappano in massa, ma non è ancora finita. Tutto era cominciato dopo mezzogiorno al Parlamento. In aula si discute di misure antiterrorismo. È quello il vero obiettivo del comando. Ma le guardie di sicurezza si insospettiscono, intimano l'ALT, lo scontro a fuoco. Ma i 3 sono già scappati. Incrociano alcuni autobus di turisti scesi da una nave di crociera. A bordo numerosi italiani, gli attentatori si barricano dentro il museo. Arrivano le forze speciali, mentre è certo che ci sono già morti e feriti. Dopo le 3 del pomeriggio il blitz. Un terrorista viene arrestato, altri 2 uccisi. Ci sono almeno 19 vittime, 17 sono turisti, tra loro anche italiani. Sarebbero le prime vittime italiane del nuovo terrorismo jihadista. Questo è il racconto della giornata di ieri che ha fatto il TG1. Questa invece che ascolteremo la testimonianza della guida al museo sopravvissuta alla morte. È la prima volta che assaggio alla morte. È un assaggio proprio, però Dio mi ha salvato questa volta. Io personalmente ho visto la morte di fronte. Sparava a destra, a sinistra, senza orientare verso qualcuno di particolare, contro tutti quelli che si muovevano nel parcheggio. È un panico totale per delle persone, poi c'erano anche dei bambini con me, quindi ho cercato di trovare la soluzione. Dio mi ha dato l'aiuto per trovarla, per farli uscire sani e salvi. Tarak Ben Ammar, l'uomo d'affari franco-tunisino, amico dell'Italia, che con la sua televisione ha contribuito all'affermazione della democrazia in Tunisia. Ecco, era a Tunisi ieri, adesso è qui con noi in studio, grazie. Lei dov'era quando è capitato? Ero in Tunisia e ovviamente appena abbiamo saputo questo, la mia televisione ha fatto una diretta fino a ieri mezzanotte, certo, per poter dare informazioni e aiutare. Ma la matrice ISIS della strage è definitivamente accertata? Non si sa, ma è quasi non importante. Intanto vorrei, Giovanni, dire la tristezza del popolo tunisino, la condoleanze alle famiglie italiane, ovviamente, e altri, che hanno scelto di venire nella nostra terra per fare turismo e si sono trovati davanti, certo, la follia. È il 12% del PIL turismo in Tunisia. Assolutamente. Quindi va protetto. L'obiettivo primario, così sembra, le cronache ne parlano, era il Parlamento tunisino dove si discuteva di terrorismo. È accertato che fosse così? Guarda, hanno preso un terrorista, lo sapremo, ancora non sappiamo. Ho parlato questa mattina con il Presidente della Repubblica e pensiamo che l'obiettivo primario è questa legge contro il terrorismo, che aveva come obiettivo di essere molto dura anche con le famiglie di queste pecore nere. Ah, cioè? Di cercare di avere il coinvolgimento delle famiglie per obbligare i loro figli a non partire in Siria e certamente a non seguire la violenza, perché questi non sono musulmani, questi sono terroristi, vorrei dirlo, l'Islam non ha niente a che fare con quello che è successo. Voi cristiani avete avuto durante il Medioevo anche delle pecore nere, al nome di Dio ammazzavano, ma basta leggere, capire le 3 religioni che al nome di Dio non si ammazza, perché sono messaggi di pace e di amore. Senta, l'operazione comunque sul Parlamento, se era quella, è un'operazione che è fallita. Il Parlamento ha reagito alla notizia della minaccia cantando l'inno nazionale, che è un bel gesto, però è anche una fotografia dell'impotenza della democrazia contro la violenza. No, la democrazia voi l'avete superata, questa violenza di anni di piombo con il terrorismo. In Italia le democrazie vinceranno sempre sulla violenza, perché le democrazie vogliono benessere e felicità e lavoro per i loro cittadini. Ovviamente dobbiamo dare alla Tunisia i suoi figli, perché io sento sempre che mi dicono: bravi, siete fantastici, la libertà, la democrazia, la libertà delle donne. Dico sì, ma invece di farci complimenti, il mondo intero ci ha promesso 4 anni fa, dopo la rivoluzione, 20 miliardi di dollari, un mini piano Marshall. Allora mi sono chiesto, ma i 250 miliardi di dollari dato alla Grecia, e ben venga, per carità, sono amico della Grecia, ma la pace in Tunisia non è un vantaggio per il Mediterraneo e in particolare per l'Italia, che è così vicino a noi? Certo. È un'urgenza. Ma in questi 20 miliardi sono arrivati? Zero. Dunque, cioè, io credo, chiedo all'Italia di essere, e devo fare i complimenti al Presidente del Consiglio Renzi, che il primo viaggio che ha fatto all'estero, quando ha vinto, è venuto in Tunisia. Dunque chiedo all'Italia di essere il nostro ambasciatore nel prossimo G20, di rispettare impegni già fatti, promessi, firmati, anche ma mai mantenuti. È uno strumento vero per combattere il terrorismo, ma anche per combattere l'immigrazione selvaggia. Si combatte il terrorismo quando non c'è ignoranza, quando non c'è miseria, quando i giovani non sono manipolati da falsi predicatori che in nome della religione lottano contro cose che non sappiamo. Questa è la priorità. Ecco, ma se fosse riuscito l'attacco al Parlamento, secondo lei sarebbe stato un colpo mortale per la giovane democrazia tunisina? No, perché abbiamo avuto altri problemi di terrorismo. Il popolo tunisino è sceso nelle strade ieri, cantando con le candele. Non vinceranno con il nostro popolo, con la violenza. Io credo con nessun popolo. Ma secondo i servizi segreti tunisini, è stata una strage inaspettata oppure c'erano dei segnali? No, abbiamo avuto tanti segnali. Daesh ha detto che la Tunisia è un paese da cercare di fare delle atti terroristiche, compreso la mia TV, è stata minacciata tutti i giorni. Cioè minacce continue? Sì, perché noi, ricordiamoci Giovanni, qual è l'argomento? L'Islam è compatibile con la democrazia? Le religioni lo sono? Non vedo perché i cristiani, voi avete una democrazia, un paio di giorni fa Israele ha avuto una democrazia, le religioni non sono incompatibili con la religione, con la democrazia, e noi tunisini volevamo dimostrare e l'abbiamo fatto, siamo un paese musulmano, moderato e democratico. E quindi la Tunisia, che è un polo democratico di resistenza all'estremismo, è un obiettivo primario. Sì, ma lo sapevamo già, non è che abbiamo scoperto qualcosa con questo attentato, ma vinceremo. Sono tre persone che hanno fatto una strage certamente terribile, ma 12 anni fa anche a Gerba c'è stato un attentatore nella sinagoga che ha ammazzato 12 persone. I pazzi sono dappertutto, se non mi sbaglio il terrorismo è mondiale, è regionale, dal Danimarca alla Francia a Charlie Hebdo. Purtroppo dobbiamo insieme lottare, se non siamo uniti tutti contro i terroristi, non contro le religioni, certo, non vinceremo. Senta, lei ha detto che la sua televisione subisce minacce, e lei anche? Non direttamente. Ma è venuto a Roma, incontrerà qualcuno? Beh, avrò delle discussioni con tante persone, come domani vado a Parigi per preparare la visita di Stato del presidente tunisino, poi vado a Washington per preparare anche quella da Obama, perché vado in giro a dire dove sono i soldi promesso per il mio popolo. Io non rappresento il governo, sono un imprenditore che vuole benessere nel mio paese, posso dire delle verità che i politici non possono dire, ecco. Ecco, ma il Mar Mediterraneo è sempre più piccolo e deve essere sempre più unito contro questa minaccia, quindi. Siamo assolutamente condannati a essere uniti, e l'Italia in primario, per fare in modo che i nostri figli del Nord Africa non vengano qua, dove c'è una crisi, dove c'è una possibilità di non trovare lavoro, aiutateci giù a creare ricchezza e benessere, e a questo punto non ci sarà tutta questa polemica sull'immigrazione che tocca la vostra politica tutti i giorni. Senta, ma in Tunisia la democrazia, abbiamo detto, c'è, ma il fondamentalismo però è radicato. Ci sono... No, non è radicato. Però guarda, ci sono 3.000 tunisini che combattono in Siria e in Libia. Sì, allora ci siamo posti il problema. Com'è possibile che il paese che ha avuto la democrazia più civile ha avuto 3.000 dei suoi figli che sono stati... Ma là è ignoranza, miseria, manipolazioni, soldi dell'ISIS che paga, sono mercenari. Paga tanto l'ISIS? Paga tanto, non lo so, certamente paga più di quello che lui ha e non ha un lavoro. Io non giustifico la loro andata là, dico certo. Dobbiamo alla radice andare dove arriva il terrorismo, viene anche dalla miseria, da questi giovani che non trovano lavoro, a noi di creare questa situazione che non scelgono la strada violente. Ecco, lei vive tra Tunisi, Parigi, Roma, Milano. A Parigi adesso capiscono l'errore che hanno fatto nel volere a ogni costo la liquidazione di Gheddafi? Ah, questa è stata una decisione più grave per noi tunisini. Abbiamo 2 milioni di libici da noi, 20% della popolazione della Tunisia sono i rifugiati libici, che lo ammettono così come dice lei, no, perché non hanno l'onestà di ammetterlo, però nei cerchi, diciamo, anche mediatici, politici, dicono che è stato un grande errore. Un grande errore, perché poi adesso questo rapporto Tunisia-Libia certo crea dei problemi drammatici. Ricordiamoci che l'Italia non era a favore di questa mossa, però ha dovuto seguire perché la NATO, l'ONU e tutto questo. Ma è l'Italia, soprattutto la Francia. Soprattutto la Francia. No. E l'Italia ne pagherebbe un prezzo grosso, enorme, se la Libia non va risolta. Ecco, ma la situazione libica, appunto, è rimediabile con un'azione politica oppure resta solo l'opzione militare che sembra sempre più venire avanti? No, credo che è rimediabile, perché i libici, anche loro, è un popolo non violente, è un popolo amichevole, non hanno tradizioni di violenza, dunque sono dei gruppi che cercano adesso di trovare un accordo. Credo che l'ONU, c'è l'inviato di Ban Ki-moon, Bernardino León, che è un amico mio che conosco, che sta adesso in Marocco cercando di, con un cessato il fuoco, trovare una soluzione. Ma quello è uno spagnolo, non era meglio un italiano? Sì, però guarda, non importa la nazionalità, e lui è un grande diplomatico, era un grande ministro degli affari esteri, italiano. È un uomo giusto. Sì, lo so che è un uomo giusto, è stato chiave per noi nel Mediterraneo, nella Tunisia, per le elezioni, ci ha aiutato molto quando Zapatero era primo ministro. Senta, l'ISIS, l'ha detto anche lei, strumentalizza in modo sempre più violento, ha scoperto la religione, ma questo aiuta la crescita del consenso in quelle frange di cui parlava lei? L'ISIS sa utilizzare la propaganda, no? E aiuta, sì, più c'è da un negativo c'è sempre un positivo. La reazione del popolo tunisino è compatta contro queste pecore nere che non vinceranno, e se le loro famiglie anche stanno con noi con questa nuova legge, battaglia che diceva, questa è una battaglia di tutti i giorni. La legge che aiuti le famiglie, ma anche resistere. I figli che ritornano dalla Siria, questi 3.000, non li vogliamo mettere in galera, li vogliamo dare un lavoro, seguirli, educarli, così loro stessi convincono altri fratelli a loro errore di essere andato là. Senta, le azioni dell'ISIS sono mediatizzate con regie sempre più hollywoodiane. Da questa formazione da dove arriva? Perché se uno pensa da Bin Laden a oggi, ma no, è molto facile, con un telefonino e con internet uno può fare un film, non ci vuole molto. Molti effetti speciali anche. Sì, ma non ci vuole, un ragazzino di 14 anni a casa ve lo fa questo. Senta, pensa che l'Italia adesso, con l'Expo prima e il Giubileo poi, sarà un palcoscenico attrattivo per scene spettacolari di terrorismo? Allora, non c'è un paese davanti al terrorismo che non è una mira possibile per chi vuol fare del male. Ovviamente i servizi segreti, credo che l'Italia è organizzata abbastanza bene per proteggere l'Expo, dunque non ho preoccupazione su questo. Infatti sono 3 che hanno voluto attaccare il Parlamento, sono andato nel museo, ma non è che sono potuto fare di più. Certo. Ovviamente hanno ammazzato 20 persone, che è già molto. Senta, vabbè, poi il Giubileo però dura un anno. La strategia terroristica, c'è un attacco sempre più violento alle comunità cristiane. Ma è perché anche là, errore, non sono musulmani, credono che attaccando cristiani fanno una guerra, ma loro fanno una guerra su loro stessi. Tra l'altro vorrei ricordare il Santo Padre, quando è ritornato dai Filippini, dopo la strage di Parigi, che abbiamo tutti condannati, i Charlie, io non sono Charlie, cosa ha detto Santo Padre? Ha detto la libertà di stampa deve fermarsi quando la dignità dei credenti sia toccata nella loro fede. Dunque, anche là, la violenza non fisica ma verbale di offendere i credenti non fa parte della tradizione musulmana. Dunque la situazione di questi ragazzi, non sanno cos'è l'Islam, non hanno neanche letto il Corano. Basta sapere che nel Corano ammazzare qualcuno innocente lo paghi in inferno per l'eternità. Dunque la violenza non fa parte della nostra religione. Senta, ma su internet l'ISIS ha pubblicato una foto con la bandiera nera che sventola su San Pietro, come se fosse un bersaglio finale. Sono bravi a fare propaganda, ma non di più. Senta, il Mediterraneo, da mare di pace e di incontro tra le religioni, come sta dicendo lei e come sognava la Pira, però si sta trasformando invece in un mare, in una bara galleggiante. No, assolutamente no. Sono tantissimi. Il Mediterraneo è sicuro, sono paesi che sanno controllare, non dobbiamo preoccuparsi oltre, dobbiamo essere attenti, uniti insieme contro il terrorismo e poi andare alla radice perché i giovani scelgono la violenza e non la vita, perché la morte e non la vita, dobbiamo dare lavoro, benessere, stabilità e apertura e educazione, quello che facciamo tutti i giorni nelle scuole, nelle famiglie e con le televisioni. I media vanno anche, devono giocare un ruolo di non, anche qui in Italia, non dobbiamo far vedere ai giovani musulmani che sono i nemici degli italiani, sono cittadini italiani fieri di essere qua in una repubblica e anche musulmani. E questo Sandro Dall'Odi scrive: ha ragione da vendere Tarak, dobbiamo ascoltarla, aiutare le loro giovani democrazie del Nord Africa. Vede, i nostri ascoltatori È una politica vincente, vincente. Se voi aiutate noi, i nostri figli rimangono da noi e voi non avete il problema dell'immigrazione. Ma quei 4 miliardi che sono stati promessi, sono stati promessi 20, scusi, sono stati promessi dal G20, da tutti i paesi del G20 del 2011. Senta, le faccio un'ultima domanda: la vittoria di Netanyahu in Israele complica o no definitivamente i processi di pace nell'area? Non facilita, ma anche se avesse vinto la sinistra, finché Israele non realizza che la salvezza del popolo ebraico, per quale noi siamo tutti per lo Stato di Israele pacifico, amico, è la soluzione di due popoli. Se non ci sono due popoli, non sarò ottimista su quella zona del mondo. Dobbiamo lavorare per il dialogo, la pace, e molti amici israeliani me lo dicono: due popoli, due state è la protezione vera per Israele. Giorgio della Tunisia scrive: bravo Ben Ammar, giusta separazione tra terrorismo e Islam, questo è il punto centrale. E poi ci scrivono anche: per la Libia bisognerebbe chiedere i danni a Sarkozy. Certamente ricostruire la Libia con dei soldi delle aziende francesi non farebbe male. Tra l'altro non hanno avuto nessun appalto, nessun petrolio, nessuna vendita. Volevano il petrolio, non l'hanno avuto. No, non l'hanno avuto. L'Italia ha un vero ruolo. Io credo nella politica estera dell'Italia, nel Mediterraneo, che sono quelli che ci capiscono di più. Un'ultimissima cosa: so che lei avrà oggi anche un consiglio d'amministrazione di Telecom. Ci sono molte discussioni intorno a Telecom. No, aspettiamo qualcosa di nuovo? No, oggi parleremo di una Telecom che i bilanci, i risultati che sono positivi, ma anche del concetto di avere contenuti sulla piattaforma, no? Il triple play, quadruple play, perché questo è il futuro della telefonia di internet. Insomma, ci aspettano evoluzioni in Telecom. Telecom è una grande azienda. E chi pensa che può essere esportata da stranieri, sciupata di notte, non esiste, rimanerà italiano, al di fuori di chi è l'azionista di riferimento. Finché io, tunisino, amante dell'Italia, sono nel Consiglio, difenderò l'italianità di Telecom, forse più degli italiani. E sarà sempre più grosso in Telecom? Non lo so se sarò più grosso, ma sarò una voce abbastanza forte. Mix 24. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non lo smettono mai, sempre per sempre tu. Allora Pietrangelo, questa canzone dove ci porti? È una lezione che mi ha dato oggi ancora una volta il filosofo in metropolitana, una lezione per spiegare come sempre per sempre tutto può essere diverso, ma tutto è per sempre. E così dalla stessa parte il treno, che altro non attraversa che una notte di grotte, la cui luce è sempre quella di una strada sola. Lì nessuno non è, e nessuno si incontra nell'impossibilità di essere sempre se stesso. Così mi ha spiegato oggi il filosofo con Sempre per sempre, questa canzone di Francesco De Gregori. E sempre per sempre da una stessa parte mi troverai, cantava il filosofo cantando sulle note di De Gregori, perché le diverse strade chiamano sempre le stesse scarpe. Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Tu Mario che scarpe hai oggi? Io ho un paio di scarponcini normali. E allora dove andiamo? Cammino. Con la bolla? Torniamo in Libia, dopo Tarak, è importante. Sentiamo un po' di musica. Questo è un bel pezzo, si chiama Tennessee, no? Bello ritmato. Allora, ci sono anche dei tamburi sotto, che non dovrebbero essere tamburi di guerra. Allora, in queste ore tu hai accennato questa cosa con la bella intervista che ci ha dato Tarak Ben Ammar. E insomma, intervento armato, partiti, andiamo, spariamo. Sì, lui dice di no. E condivido. Ma scusa, sparare a chi? Primo. Sparare dove? Perché si dice l'attentato in Tunisia, però andiamo in Libia. Perché siamo sicuri che quelli erano libici infiltrati? Siamo sicuri che erano dell'ISIS? Siamo a quale fazione appartengono? No, sono cose che non sono chiare per niente. Ecco, voglio dire, primo. Secondo, poi si straparla di intervento in Libia senza capire. Ma sapete quanto è grande la Libia? Bisogna ripeterlo. È grande come l'Alaska. Sapete quanti soldati ci vogliono per controllare il territorio, tutte le città costiere, i pozzi di petrolio? 4.000 chilometri. Vi faccio solo un paragone. L'Iraq, che è uno sputo rispetto alla grandezza della Libia, 265.000 soldati quando ci fu l'invasione. Chi li mette? Li mettiamo noi? Li mettiamo noi? Li mettono gli americani che non riescono? Non bastano i droni. Ma che droni? Dai, allora, insomma, allora le guerre non si improvvisano. È una guerra in Libia, noi non ce la possiamo permettere. Noi dobbiamo fare esattamente quello che ha detto Tarak: aiutare lo sviluppo e ovviamente la sicurezza. Questo è un altro paio di maniche, ma non imbarcarci in un'operazione militare di cui non siamo capaci. Finirebbe come in Afghanistan. Esatto. E in Iraq. Pubblicità. No, perché mi prendo il salamino. Prendi il salamino, che mi sono sbagliato, vai. Tutti abbiamo visto la croce di Mosul, l'hai ricordato tu prima con Tarak Ben Ammar, la croce di Mosul piegata, cancellata, gettata a terra per dare posto alla bandiera nera del califfo. Nessuno invece ha visto la croce ridotta a un sex toy. Perché? Esistono gli intoccabili. Esiste una casta di superiori su cui non è consentita critica, pena la condanna suprema, essere cacciati dal consesso civile. Gli intoccabili di cui voglio parlare adesso, prendendomi un minuto di pura testa reazionaria, sono quelli che hanno fatto un imperativo categorico della loro cosiddetta scelta sessuale. E l'omosessualismo è il totem invincibile della nostra società. Ci fu il caso Barilla, lo ricordiamo tutti, il mulino bianco della famiglia normale. E per un bel pezzo il povero Barilla lo stavano mandando al fallimento. Recente il caso Dolce e Gabbana, niente figli e niente adozioni, e si è arrivata a vedere la scena di Ornella Vanoni che per protesta ha dato il proprio cappotto di cincilla al barbone sotto casa. Io voglio mettere in parallelo due fermo immagini: la croce di Cristo nella chiesa di San Giorgio a Mosul, gettata per terra per lasciare il posto alla bandiera del califfo, e a Bologna il circolo gay, il Cassero, finanziato dai fondi pubblici, che organizza in tempo di quaresima il venerdì 13, dove alcuni giovanotti travestiti da Gesù e dalle comparse del Golgota hanno messo in scena un'orgia facendo del crocifisso un sex toy. Avranno fatto felici gli assassini dell'ISIS. Hanno dato l'idea della considerazione che noi abbiamo della nostra più profonda identità. E a cercare pace, un accenno di una bellissima preghiera rivolta in forma di canzone di Franco Battiato. Sia lode, lode all'inviolato, lode all'inviolato, Mario. Allora, prendiamo il volo, dai. Dopo l'inviolato. Allora, Superstition, ovviamente, Stevie Wonder. E volare, chi fermerà la concorrenza a tutto l'industria, mondo dell'industria aeronautica, delle compagnie aeree del Golfo? La risposta è nessuno, perché sono avanti rispetto agli americani, sono avanti rispetto agli europei e sono, come dire, è bello quando sono privi di sovrastrutture ideologiche, ma fanno le cose per soddisfare i clienti. Hanno le flotte più nuove, più aerei, servizio migliore, standard eccellenti, aeroporti magnifici, le rotte si moltiplicano. La cosa riguarda da vicino noi, perché... All'Italia, certo, e Etihad, come sapete, le compagnie americane hanno accusato Etihad, Emirates e altri di concorrenza sleale, e così pure anche le europee. È un caso molto interessante. Sono solo più avanti. La cosa divertente è che li hanno accusati dicendo: ah, gli americani hanno detto, ah, ma non sono sindacalizzati. Faccio notare che solo il 7% dei lavoratori privati in America è iscritto al sindacato. Vabbè, quindi la ragione, pochi. Esatto. È una grossa sfida che è in corso, questa qua, e la ragione del loro successo in realtà è solo una. Si viaggia bene e i clienti sono soddisfatti. E non è poco. Mi spiace. E non è poco. Sara Tardelli, la quota rosa. Qualcuno c'è, non siamo più i soli che, aprendo il giornale la mattina, leggono storie di uomini di potere che perdono la testa e pensano di vivere improvvisamente dentro un film, anzi un colossal americano, considerando i soldi che leggiamo che vengono sperperati. Bene, in America c'è un deputato repubblicano, considerato un enfant prodige della politica USA, che ha sperperato per fare la bella vita tutto: rimborsi elettorali, le donazioni dei privati, addirittura il fondo destinato ai giovani repubblicani. Ma la ciliegina sulla torta è stata la ristrutturazione del suo ufficio a Washington. L'ha rifatto identico allo stile vittoriano della sua serie TV preferita, Downton Abbey. Allora, ascoltatori, a chi dareste il premio creatività? A Mister Mutande Verdi o all'arredatore mancato? Ci ha voluto raccontare che tutto il mondo è paese. Beh, eh? Sono dappertutto, no? Canzoniere? Allora? Il canzoniere. La natura è piena di questi fatti. C'è chi ha immaginato la mano mozza di un assassino che continua a uccidere. C'è chi si è sbizzarrito con la testa di un ghigliottinato che seguita a parlare. In genere sono racconti dell'orrore, fanno rabbrividire. 800 24 0024 numero verde, numero SMS 349 238 6666. Anche oggi una mia bolla. Riccardo Rossi, attore, conduttore televisivo, uomo di teatro, adesso regista e protagonista del film La prima volta di mia figlia. Allora, un primo dolce, tenero, un po' struggente film, anche forse un po' fuori dal tempo, o forse no, Riccardo? Il dottor Santini conduce una vita tranquilla. Buongiorno! Molto organizzata. I carboidrati a pranzo e le proteine a cena. E la sambuca che mi ha regalato la signorina Irene. Bella professionalità. Impeccabile sotto tutti i punti di vista. Ma qualcosa sta per sconvolgerla. È successa una tragedia. Bianca sta per fare l'amore. Secondo me l'ha già fatto. No, ho letto un pensiero sul suo diario. Non si legge mai il diario dei figli. 15 anni sono troppo pochi per fare l'amore per la prima volta. Quindi che facciamo? La facciamo arrivare vergine a 40 anni? Sì, auguri. Ma dove lo fanno? Dove? Ovunque, Alberto. In discoteca, al bowling, sull'autobus. Faglielo fare direttamente a casa tua. A casa no. Una vita disperata quella del dottor Santini. È improvvisamente sconvolto da questa scoperta? Eh? Beh sì, perché un padre in realtà della figlia non sa mai quasi niente ed è sempre l'ultimo a sapere le novità dentro casa. È una frase che proprio echeggia spesso, no? Ma io sono sempre l'ultimo a sapere le cose. E questo padre fa una cosa che non deve fare mai nessun padre, cioè leggere il diario della figlia. Beh, ma nel film un punto chiave, anche un punto emozionante, è quello dove quando gli anziani, diciamo i grandi, sì, confrontandosi con la figlia, piano piano, riuniti intorno a un tavolo, raccontano la loro prima volta. Come ve la siete cavata? Ma abbastanza bene, perché in realtà, soprattutto nel ricordo, la prima volta di ognuno di noi è tutta infiocchettata. Perché ovviamente prima c'erano tante aspettative, l'uomo cerca di fare la miglior performance possibile, la donna cerca di fare la cosa più romantica possibile, e poi quando passano gli anni, quando uno comincia a ricordarla, si vede che ognuno appunto cerca di metterla meglio, ma si ricorda tutti i dettagli precisi. Tu non sei padre. No. Però la sceneggiatura è tua. Sì. Ecco, sono storie che hai rubato agli amici, oppure è un incubo a cui hai voluto sottrarti non facendo figli? Beh, quello di quella prima volta, di dover affrontare con una figlia eventuale quel problema. Sì, beh, senz'altro un po' di paura c'è stata, Giovanni, questo te lo devo dire, perché dunque la sceneggiatura l'ho scritta con Luca Infascelli e Chiara Barzini, che tra l'altro aspettava il suo primo figlio. Però è vero che guardando tutti gli amici miei, tu sai che sono rimasto molto legato ai miei compagni di classe, e ho visto praticamente le loro vite. Perché loro hanno fatto delle famiglie, alcuni sono separati, alcuni sono addirittura divorziati, hanno fatto un'altra famiglia, e intanto i bambini, i figli avuti dal primo matrimonio crescevano. E vedevo l'inadeguatezza, se così posso dire, di questi miei compagni fraterni, di questi miei amici, alle prese con questo problema che cominciava ad arrivare dal fatto che comunque alla fine decidono gli ormoni, e quindi lo sguardo di tua figlia già cambia, cambia il modo di vestirsi, cambia il modo di porsi. Quando in realtà poi un padre vorrebbe che sua figlia rimanesse sulle ginocchia tutta la vita. Accettare quel passaggio è difficile. È molto padre, difficile. Ecco, ma il dottor Santini, che è il tuo personaggio, alla fine che cosa impara da questa figlia adolescente che in realtà è molto più avanti di lui? Esatto, e impara proprio questo, impara di essere rimasto indietro, e impara soprattutto che è la vita a decidere certe cose per lui, che non c'è niente da fare, per cui arriva un momento in cui una persona, come poi peraltro è stato lui, ragazzo, giovane, adolescente, succede qualcosa di miracoloso che fa sì che questa piccola linea d'ombra, una delle tante che noi ci troviamo a superare nella vita, arrivi. Ma tutti questi grandi che sono riuniti attorno al tavolo nel raccontare la loro prima volta, ognuno scopre qualcosa? Beh, secondo me sì, perché sai cos'è? Che ognuno io ho voluto raccontare nel film in realtà tre situazioni tipo, quindi fai conto, c'era una prima volta di un flashback che è la prima volta con i Boy Scout, che se ci pensi, oggi come allora, perché ho scoperto che ancora oggi è così, molti ragazzi per la prima volta mettono il naso fuori di casa proprio con andando a fare qualche campeggio scout, e in quelle tende qualcosa succede, perché lo vedi quando tornano sera tutti e sono diversi, no? Poi ho messo per esempio un'altra prima volta di una ragazza che nel film è interpretata da Anna Foglietta, quando giovane decide di fare l'amore la prima volta per togliersi il pensiero, perché per molti e molte è vissuto proprio come un incubo. E poi ho messo una scenografica di un imbranato che ero io, per cui arriva una ragazza che praticamente sistema tutto lei, fa tutto lei, non muove un dito, al caso di dire. Ecco, senti, la festa del papà, ma quello della prima volta, questa storia, questo rapporto, quel momento è un momento chiave del rapporto padre-figlia? Beh, io penso di sì, perché finalmente il padre, il maschio, il genitore padre riesce a vedere sua figlia per quello che veramente è ormai, una donna. E questo è il problema, il fatto di vedere sempre questi figli, sempre cuccioli, sempre piccoli. Per me questo è un problema, e ti dico una cosa, che vorrei tanto che a un certo punto i genitori, padre e figli, diventassero dopo un po' colleghi del genere umano. Questo è il mio augurio. Va bene, il film del giorno della festa del papà. Damiano e Anna Maria da Roma ci scrivono: Riccardo Rossi a teatro, uno spettacolo, faccio i complimenti da parte mia e di mia moglie, li facciamo anche a noi, a lui e al suo film Pubblicità. Mix 24 Salamino. Salamini in sezione. Un partito non solo cattivo, ma pericoloso e dannoso, che lavora per gli eletti anziché per i cittadini. È così che parla Fabrizio Barca, ex ministro, erede di una schiatta comunista, che ha avuto incarico da Matteo Orfini, presidente del PD, nonché commissario a Roma, di fare un viaggio nel partito di Renzi dopo l'esplosione di Mafia Capitale. 3 mesi in giro per le sezioni, dove si vede altro che una massiccia presenza di carne da cannone da tesseramento. Ed è un dossier shock questo di Barca, e però il partito della nazione di Renzi è costruito, diciamo, con un certo impasto. E se solo lo spedisse in Sicilia, mi permetto di suggerire, dove il PD sta imbarcando tutta la schiuma derivata dalla fogna del potere, sarebbe tutto un bel galleggiare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene... Mario Bolla! Vai. È un periodo che ce l'ho con Bruce Springsteen. Eh sì. L'America. Senti, bello. Allora, molto rapidamente, Giovanni, sai quanti PlayStation 4 ci sono state già vendute al mondo? No, dimmelo. 18 milioni e mezzo. Solo. 4 milioni solo durante le feste. Perché ti dico questo? Perché la Sony ha cominciato a fare lo streaming della TV online, dunque, sulle sue PlayStation in America. I problemi sono sempre contenuti, infatti. Esatto. Ah. E la cosa interessante, però, è che questo diventa un altro competitor molto forte. Chi ha visto la programmazione e i servizi ha detto che siamo al top, finora mai visto, di questi servizi, e ci credo, perché Sony è un player importante. Costo mensile non poco, 50 euro, ma più o meno siamo sui livelli di un bouquet di Sky. Certo, parliamoci, più o meno, sì. Parliamoci chiaro. Vediamo quando arriva in Italia. Cosa capita? Cosa capita? Posso dire una cosa? Dilla. È un po' come predicare nel deserto, dire queste cose da noi. Però, perché accadranno. Però, insomma, è sì, una testimonianza. Sì, perché accadranno e poi diranno: ma è successo? Non lo sapevamo. Donato da Pescara. Donato da Pescara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, provi a dire. Allora, il naso di Gogol. Giusto! Bravo! E a leggere bravissimo. Non era Montanelli. Grazie. Niente. Complimenti, grazie. Grazie a voi. Buongiorno, buongiorno. Il Gattopardo, morte a Venezia, senso. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un grande, di Luchino Visconti, un protagonista del cinema italiano internazionale dal dopoguerra in poi. Con Marina Milone ripercorriamo la vita, l'impegno nella resistenza, il rapporto molto complicato col Partito Comunista e con la sua omosessualità. Ma prima della pubblicità, i treni di Franco Battiato. In una vecchia miniera, distese di sale, è un ricordo di me, come un incantesimo. E per un istante ritorno.